Kellogg, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Stiamo vedendo in diretta un incendio, si presuppone sia la cittadella della scienza. Fuoco e fiamme bruciano da più di un quarto d'ora. In piedi restano solo i muri perimetrali, dentro è un inferno di lamiere e cumuli di macerie. Ecco quello che resta di Città della Scienza, il più grande museo dell'innovazione, della tecnologia e della cultura. In pochi minuti le fiamme hanno divorato 12.000 metri quadrati, tutti i capannoni della zona museale. L'area è stata posta sotto sequestro dalla magistratura, che sta indagando per accertare le cause del disastro e verificare se l'incendio è l'opera di criminali senza scrupoli. Con Città della Scienza Napoli perde uno dei simboli della rinascita di Bagnoli. I danni ammontano a decine di milioni di euro. Per fortuna che almeno i sogni, quelli, non possono andare in fumo. In attesa delle perizie e degli accertamenti tecnici, resta lo sgomento... Mi sto rendendo conto questa mattina che in realtà non mi sembra che il Paese sia stato particolarmente attento a quello che è accaduto e di cui avete sentito una rapida cronaca. Ha preso a fuoco un posto che... era comunque dedicato alla scienza. Usando un termine formalmente non proprio, era una sorta di cattedrale in cui veniva celebrato, ricordato, era visibile, tangibile, percorribile, quello che era il punto su quella che era l'innovazione, la ricerca scientifica, i traguardi raggiunti dalla scienza. Perché abbia preso fuoco? Certo, non è stata autocombustione, qualcuno gli ha dato fuoco. Gli ha dato fuoco probabilmente per motivi molto banalmente legati a un controllo del territorio, stanno indagando, ma non è questo il problema questa mattina. Il fatto è cosa sia stato distrutto nel giro di una notte e di cosa questa mattina noi forse dobbiamo parlare. Stefano Moriggi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Stefano Moriggi, filosofo della scienza, nostro amico, ieri sera parlando al telefono mi ha fatto capire che forse probabilmente oggi vale la pena di parlare di questo episodio, perché non mi sembra che nel panorama generale di attenzioni, di facezie, di divertimenti, di racconti che vengono fatti, in cui la politica sta mostrando il suo aspetto più terminale, diciamo la verità, in cui la grande macchina dell'attenzione rispetto ai fatti di cronaca sembra fortemente organizzata nel dare lo zoom attimo dopo attimo in quello che accade. La cosa più vicina a qualcosa che paradossalmente avrebbe a che fare, ma non ha a che fare con qualcosa di scientifico, una dichiarazione fatta da uno dei neo eletti riguardo a certi microchip che sarebbero messi negli esseri umani da chi vuole controllare l'umanità. E invece cosa è accaduto, Stefano? Ma guarda, l'altra sera quando sono stato raggiunto dalla notizia, ovviamente attraverso la rete, sono evidentemente rimasto sbalordito. Poi sono arrivate le prime immagini ed è stato lo shock. Io ero stato qualche mese fa a Città della Scienza in occasione di un appuntamento tradizionale che si chiama Futuro Remoto, dove appunto studiosi di varie formazioni e provenienza si incontrano e dibattono, e ho visto queste immagini, non c'era più niente, tutto avvolto dalle fiamme. Ma subito dopo, diciamo così, lo shock per il disastro, mi ha colpito, diciamo così, la disattenzione, ma ancor più l'indifferenza da una parte dei media, ma soprattutto anche, come tu accennavi, dalla politica. E perché mi ha colpito? Perché non hanno capito che non è andato solo in fumo un laboratorio scientifico, una struttura, come tu dicevi, peraltro importantissima, ma è andata in fumo un luogo dove si faceva educazione scientifica, dove si era capito che la scienza è un bene pubblico, è un bene della polis e tale deve essere. Non c'è stata la minima percezione non solo dell'entità materiale del danno, ma anche della rilevanza simbolica. Adesso ti dico Stefano la mia impressione, dimmi se secondo te sbaglio, ma da banalissimo divulgatore. Da una parte per qualcuno è stato l'ennesimo episodio in cui riemerge lo spettro della malavita organizzata, della camorra, che però è un fenomeno, parlo con grande cinismo professionale, emotivamente, dal punto di vista della notiziabilità, è un po' esaurito. Abbiamo avuto troppo Saviano ultimamente, perché la gente si appassionasse per l'ennesimo episodio di scelleratezza, di malavita organizzata. D'altra parte la gente ha avuto l'impressione che avessero dato fuoco a una sorta di parco a tema, una specie di Gardaland, una specie di città dei ragazzi dove si gira e si vede le curiosità scientifiche. Non è questa anche la tua impressione? Esattamente questa è la percezione che c'è stata attraverso i media e, insisto, soprattutto nella politica, dove si sono susseguite solo delle dichiarazioni retoriche, tipo quelle che si fanno ai funerali, che si capisce che sono distanti un mondo dalla realtà e dalla carne dei fatti. Lì è andato a fuoco un laboratorio di educazione civica e politica e nessuno se n'è accorto, perché la scienza è un bene pubblico. Gli amici di Città della Scienza hanno saputo trasformare, ideare, pensare quell'istituzione come una scuola di educazione civica, e quella ferita non è una ferita di Napoli, è una ferita dell'Italia. L'hanno capito molto meglio in Europa che in Italia. Questa è la cosa grave. Non c'è stato un politico, uno, che si fosse preso la briga. Sì, qualche telegramma hanno fatto. Fisicamente, sì. Gianluca, fisicamente, perché anche la presenza fisica è simbolica. È simbolica. Mi sembra che il ministro Cancellieri sia andato, onestamente. Ah, non ho sentito, sì, le sue dichiarazioni, queste mi saranno sfuggite, ma d'accordo, si poteva fare di più. Pietro Greco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Pietro Greco è un giornalista scientifico, è uno dei soci fondatori della Città della Scienza, ha fatto parte del suo consiglio di amministrazione. Innanzitutto, qual è la situazione, lo status? Com'è possibile che tutto è finito nel giro di pochissime ore? C'è stato un attacco, diciamo, scientificamente sferrato, se mi consenti l'inutile forse ironia, perché per essere fatto un lavoro così fatto bene è stato fatto a regola d'arte. Sì, è stato un attacco, hai ragione, scientificamente portato avanti e realizzato. Ed è stato un attacco, non un solito attacco della camorra, per carità, diciamo, Napoli e il Mezzogiorno d'Italia sono segnati, sono feriti continuamente ogni giorno dalla criminalità organizzata, però questo è qualcosa di più, come diceva Stefano Morigi, che riguarda l'Italia e l'Europa intera. Non era mai accaduto in questo continente che un centro di ricerca scientifica, un centro di educazione alla scienza, io lo chiamo un laboratorio della cittadinanza scientifica, venisse colpito dalla criminalità organizzata o dalla criminalità comune. È davvero un fatto inusitato. E in più c'è un'altra cosa. La Città della Scienza è l'unico fiore che c'era e che spero presto ricrescerà splendido come prima e più di prima, in un deserto post-industriale. 25 anni fa nell'area di Bagnoli c'erano 15.000 lavoratori che lavoravano nell'industria classica. Città della Scienza ha dato un'indicazione: guardate che il mondo è cambiato, l'industria classica da noi non funziona più, occorre una nuova industria che produca nuovi beni fondati sulla conoscenza. Questa indicazione è stata data nell'indifferenza generale, che non è solo di questi giorni. Senti Pietro, solo una cosa: l'attenzione delle cronache su quale sia stato il movente profondo, speculazione edilizia, vogliono costruirci altre cose, ma non trovi che sia qualcosa di molto più profondo? Perché comunque la camorra non si muove mai per caso e i colpi che dà gli avvertimenti a volte sono anche più sottili di quello che noi possiamo pensare. Uccidere l'unico barlume che c'era in quella zona sguardo verso il futuro, di segno di allineamento totale con i tempi, che non vogliono arretratezza, non vogliono pregiudizio, non vogliono convinzioni oscure sulla gestione della realtà, non è qualcosa di più intelligentemente sferrato verso questo posto? Io non ho dati per darti ragione, ma penso che tu abbia assolutamente ragione. Cioè, il messaggio è molto più profondo ed è molto più esteso che non quello della riappropriazione del territorio per la speculazione edilizia. Tra l'altro già 100 anni fa Benedetto Croce parlava di una camorra che non è solo la camorra violenta, militarizzata, ma è quella di una certa borghesia speculatrice che a Napoli e in Italia esiste, che cerca di bloccare ogni strada verso il futuro per congelare il presente in una eterna situazione. Ecco, io penso che questo sia il messaggio che ci viene da quelle fiamme, ed è questo messaggio che dobbiamo reagire. Sentiamo qualche ascoltatore. Il numero è, come sapete, 800240024. Questa mattina cerchiamo, se possibile, non vogliamo colmare nessuna lacuna, ognuno svolge come meglio crede il proprio lavoro di informare, però pensiamo che sia doveroso parlare di qualcosa che ci manca in questo momento. Ci manca uno dei grossi laboratori in cui si discuteva e si mostrava e si divulgava la scienza. Sono in tante città d'Italia, poi ce ne parleranno i nostri ospiti, ce n'è uno equivalente a Parigi, c'è a Lisbona, c'è a Amsterdam, c'era anche in Italia, adesso in Italia non c'è più. Enrico, buongiorno. Sì, buongiorno. Io non sono molto ferrato in quello che era la città della scienza di Napoli, però quello che volevo sottolineare io era che come sia un altro segno del fatto che in Italia non si punti più alla scienza né alla conoscenza in quanto tale, ma ci si stia appiattendo su questioni più basse possibili, senza dare sfogo a una dei alla cultura, alla scienza, alla ricerca, a tutte cose che l'Italia geneticamente è dotata e dovrebbero essere un vanto dirò una cattiveria, Enrico, così mi guadagnerò un altro po' di anni di purgatorio. C'è stata molta più attenzione ai rituali millenari di preparazione del conclave, sulle scarpe, esatto, del Papa uscente, su quelle che avrà il Papa entrante, via dicendo, rispetto a questa cosa qua. Eppure, rispetto al nostro patrimonio culturale, con rispetto e spazio per tutti, è accaduto qualcosa di forte, di importante. La mano della malavita organizzata ha segnato il paese in uno dei suoi centri di eccellenza, dicendo: no, qui non andate avanti, continuate a guardare benissimo quello che accade nel vostro paese, le liti dei politici, quelli che escono, quelli che entrano, i dibattiti, i disagi, internet, maniera di vedere il nuovo attraverso la rete, ma laddove il nuovo c'era e non c'è più, pare che nessuno se ne faccia poi un grande problema. Franco. Buongiorno. Guardi, Nicoletti, se dobbiamo fare un'orazione funebre di quello che è avvenuto. No, ma guardi, io intimamente sono d'accordo su quello. Non sono per le orazioni funebri, tanto che già il messaggio che arriva al Città della Scienza ripartiremo subito, poi diremo quali sono le manifestazioni che stanno preparando. Piangere sulle macerie non ha senso, è antiscientifico poi, ecco. Ecco, io sono addolorato per quello che è successo, ma proprio per non essere antiscientifico devo anche guardare a quella che è la realtà dove questa città della scienza si colloca, cioè Napoli. Allora a Napoli io vedo una Pompei che sta andando in rovina e vedo le scuole, parlando della conoscenza, della scienza, le scuole che sono messe come sono messe. Se c'erano delle risorse da destinare alla conoscenza, metà di quelle risorse andavano usate per Pompei e l'altra metà andava usata per le scuole, secondo me. Quindi lei vedeva una sorta di inutile cattedrale, la città della scienza, dice: restaurate Pompei e date soldi alle scuole. Come... Bella, non inutile, bella, utile, ma se ci sono delle priorità, ma non è questo il momento per fare questo discorso, mi rendo conto. Vabbè, lei esprime il suo parere, all'inizio. Il bello è che ognuno possa esprimere il suo parere. Io invece sono d'accordo che i luoghi che hanno un forte valore di innovazione, è anche un valore simbolico, senza entrare negli aspetti misteriosofici, liturgico, che accreditano un luogo, aveva senso di esistere, proprio perché era qualcosa che sembrava uno sberleffo al degrado, uno sberleffo a una sorta di condizione millenaria che sembrava una destinazione senza uscita. Proprio nel posto più desolato si era fatta la città della scienza. Tu cosa ne pensi, Stefano Moringi? Esattamente quello che dicevi tu. Che non è stato colto l'entità materiale del danno, come dicevo prima, il suo valore simbolico, perché in una città piena di contraddizioni, no? Come diceva Totò, tra miserie e nobiltà, nella sua grandezza storica e nel suo problematico presente, c'era un centro che insegnava la scienza, spiegava che è una cultura che va condivisa, che nel presente e nel futuro non si potrà essere cittadini in senso pieno se non con una completa e articolata educazione scientifica, e non a caso si è colpito lì, non si è colpito un'altra cosa. Scusa Stefano, siccome dobbiamo noi dare delle semplificazioni, la gente mi sta scrivendo: è a Napoli, hanno solo in mente Maradona, che gliene importava la scienza. Tu che la conoscevi bene, ma descrivi in un istante cosa fosse la città della scienza, l'impatto quando uno arriva, la cosa vera, se no non capiamo bene o non capiscono le persone di cosa stiamo parlando. Quando uno arriva, intanto è accolto in un teatro naturale meraviglioso, a Bagnoli, che sta sotto Posillipo, davanti a un mare bellissimo, e c'erano questi capannoni, archeologia industriale, come si dice adesso, ultimamente ristrutturati, che ospitavano laboratori, centri di divulgazione scientifica, tutta una serie di strumentazioni che insegnavano dai bambini agli adulti che cosa non fossero gli esperimenti fondamentali della storia della scienza, e dei laboratori in cui si sognava quale sarebbe potuto essere il futuro della scienza. Qualche mese fa, appunto, quando stavo lì, Luigi Amodio mi raccontava che avrebbe sognato l'anno prossimo di immaginare, anche grazie al potere delle note delle tecnologie che ormai usiamo, cosa sarebbe stata Napoli tra 100 anni. Ecco, quel sogno non sarà realizzabile sicuramente quest'anno, ma mi auguro che nei prossimi lo si potrà fare, perché Napoli senza la città della scienza è difficile immaginare cosa potrà essere, perché era proprio un laboratorio di idee, di confronto, non solo, aperto anche sul Mediterraneo, perché c'erano ospiti che venivano dal Medio Oriente per confrontare le loro idee, i loro progetti sulla città. L'ultima volta che ci siamo trovati c'era anche Pietro Greco, che gentilmente mi aveva invitato, con noi c'era Marco Gé, anche per ragionare sul rapporto tra scienza, città e democrazia. Era un centro di confronto enorme che teneva insieme. Però senti una cosa, Stefano, cosa ci dice Walter? Walter, buongiorno. Buongiorno, sono Walter. Io leggo mediamente in 3-4 volte. Com'è? Sì, no, dico in sintesi, con il suo pensiero. 3-4 volte il giornale alla settimana, leggo un settimanale regolarmente, seguo i TG, ma sinceramente io non avevo conoscenza dell'esistenza, scusi, il contatto della città della scienza. Lei dice, ce ne siamo accorti perché gli hanno dato fuoco. Esatto. Quindi esatto, comunicato a poco questa realtà. Pietro Greco, cosa risponde a questo ascoltatore? Dice, in realtà ce ne siamo accorti quando l'hanno incendiata. Certamente, forse abbiamo comunicato male poco, forse abbiamo avuto poca attenzione dai media italiani, però ricordo che Vittorio Silvestrini, il fondatore di Città della Scienza, è l'unico italiano ad aver ricevuto il premio Descartes sulla comunicazione della scienza dell'Unione Europea, quindi fuori dall'Europa era conosciuto, la città della scienza fuori d'Italia. La città della scienza ha diretto l'Associazione dei Musei Scientifici Europei per alcuni anni, quindi questo riconoscimento assolutamente c'era. Ma vorrei aggiungere un'altra cosa e poi dovrò lasciarvi. Non era solo un laboratorio di cittadinanza scientifica in cui si faceva, come qualche ascoltatore ha detto, una cultura forse troppo avanzata per la realtà. No, era esattamente il contrario. A Città della Scienza c'erano e ci sono ancora imprese che vengono incubate, sono imprese che si fondano sulla conoscenza per un nuovo modello produttivo, che è l'unica speranza per poter salvare Pompei, le scuole di Napoli, Napoli stessa e l'Italia intera. Se noi non entriamo nella società, nell'economia della conoscenza, da questo inviluppo di declino che è massimo nel mezzogiorno ma attanaglia l'Italia intera, noi non ne usciremo. Questo era il messaggio di Città della Scienza e questo sarà ancora il messaggio di Città della Scienza, perché noi non stiamo celebrando un funerale, stiamo celebrando la rinascita di Città della Scienza. Ringrazio Pietro Greco, so che ci deve lasciare, quindi lo saluto. Sento velocemente l'ascoltatore Daniele, poi riprendiamo dopo le informazioni della borsa. Daniele. Pronto, buongiorno, sì. Buongiorno Nicoletti. Senta, due cose velocissime. Uno, è un peccato che ci ha lasciato il nostro ospite, che avevo bisogno di un chiarimento. Uno, come mai tutta questa attenzione adesso per la scienza, e veniamo a sapere anche che i dipendenti della Città della Scienza erano da mesi senza stipendio, quindi la cultura non ha soldi. Primo, diciamo fra un istante, dopo parleremo con il direttore e gli gireremo la sua domanda. E l'ultima cosa importantissima, durante un servizio di Rai 2 o 3 ieri ho visto che parlavano che c'è già una nuova ala del Museo della Scienza pronta, che doveva essere inaugurata, mancanza di fondi, è ferma, in costruzione, senza fondi. Mi date la conferma di questa parte? Perché sennò non riesco a capire, capisce? Cioè, è stata distrutta quella attuale, c'è ancora intatta quella nuova che è senza fondi. Volevo capire la notizia, se è vera o... Allora Daniele, noi ci fermiamo solo un istante perché dobbiamo dare la linea all'informazione della borsa, ma rimanga anche lei in ascolto, la riprendiamo tra un po'. Melog La realtà condivisa. Un modo diverso di concepire l'uso e il ruolo della cultura. Tutto questo non può andare in fumo in una nottata. L'unica realtà di Bagnoli che era l'unica cosa vivente, era la città della scienza. Questo incendio in qualche modo rischia, come dire, di distruggere un sogno. Se potessi fare una battuta direi i sogni per fortuna non si bruciano e quindi spero che possiamo ripartire. Per il momento l'unico dolo è quello 800024 dedichiamo questa mattina la puntata di Melog alla questione, alla vicenda, al lutto nazionale, diciamo veramente, anche se forse non così profondamente sentito, della distruzione della città della scienza a Napoli. Abbiamo capito che è un'istituzione importante, era un punto di riferimento per la comunità scientifica, per le analoghe esperienze che sono in altre parti del mondo. Propriamente, profondamente, non così sentita a livello nazionale, almeno nell'emotività generale, non era così percepita che ci fosse questa realtà. Oggi ci se ne accorge perché non c'è più, perché qualcuno gli ha dato fuoco in maniera molto tecnicamente scientifica. Della città della scienza non rimane più nulla o quasi più nulla. Eravamo rimasti sospesi con l'ascoltatore Daniele. Daniele, riassuma velocemente qual era il senso della sua domanda. Sì, eccomi, il concetto è questo. Ieri ho ascoltato la notizia che, adesso non ricordo se su Rai 2 o Rai 3, sul telegiornale, e parlava appunto intervistando un responsabile della città della scienza che, grazie a Dio, si era salvata la parte in costruzione che era in sviluppo della nuova città della scienza, per cui in teoria ci sarebbe la possibilità di continuare questo sogno, cioè di poter andare avanti e aver subito una struttura nella quale mettere tutto ciò che di positivo era stato fatto prima, di ciò che si è salvato o di ciò che può essere recuperato o rimesso. Ecco, capire se questo era reale, cioè, e poi volevo capire anche come mai, se questo polo era così importante, la gente che si occupava di mantenere vivo il punto della scienza a Bagnoli era senza stipendio da quasi un anno, mi sembra, da un sacco di tempo. Quindi come mai la scienza è, diciamo, sottopagata, la cultura è sottopagata e questa attenzione da parte dei media così era così bassa su questa cosa, non se ne sapeva. Grazie alla domanda, Daniele. Luigi Amodio, buongiorno. Buongiorno. Luigi Amodio è il direttore della Città della Scienza. La introduco subito con una domanda di un ascoltatore. Due tipi di domande. È vero che è rimasta una sorta di appendice ancora non distrutta da cui può ripartire la città della scienza, poi quali erano i problemi reali dell'amministrazione di questo luogo? Perfetto. Allora, sono due domande molto puntuali e cui è molto facile rispondere. Allora, è rimasta ben più che un appendice, perché città della scienza non è solo il Science Center che è andato in fiamme. Città della scienza era un progetto complesso e anche dal punto di vista fisico. Io invito l'ascoltatore a cercarla con Google Map, con Google Earth, si vede molto bene. Consta di due grandi edifici, il, appunto, quello sul mare che è andato distrutto, il secondo che è altrettanto grande e altrettanto imponente, che si trova dall'altra parte della strada di Via Coroglio, che ospita un incubatore per imprese, dove sono operative decine di piccole e medie imprese, anche quotate in borsa e che magari hanno anche uffici a Barcellona, Londra e Parigi, insomma, questo è il livello, sono delle start-up di grandissimo valore. Un centro di formazione dove si svolgono attività formative, appunto, e un centro di congressi che a Napoli è uno, diciamo, dei più significativi, con sei sale, una galleria per esposizioni e così via discorrendo. Quindi il primo messaggio che io voglio lanciare a tutta Italia, a tutti quelli che ci ascoltano, è che Città della Scienza non si ferma, Città della Scienza continua le proprie attività. Cominciamo già subito sabato con un convegno, ieri si è tenuta una conferenza per le scuole che era calendarizzata da tempo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma noi procediamo. A breve riprenderemo anche le attività espositive, non sappiamo ancora precisamente dove, ma stiamo facendo chiaramente in queste prime ore di shock, diciamo, alcuni studi, alcune valutazioni su dove reinstallare alcune... C'è da dire, direttore, in un momento in cui c'è questa ipercelebrazione dell'attivismo in rete, in poche ore 8.000 persone hanno aderito a un flash mob in rete. Domenica mattina ci saranno queste persone. Assolutamente. La seconda questione, quella della mancanza dei fondi. La seconda questione, allora noi stiamo sostanzialmente di quello che è uno dei problemi di cui tutti i giorni si parla in televisione, poi appunto la realtà è questa. Gli enti pubblici pagano in ritardo, pagano male, ci sono burocrazie che rallentano i pagamenti in maniera drammatica. Noi vantiamo nei confronti di vari enti pubblici e speriamo, diciamo, che l'evento dell'altro giorno in qualche modo acceleri le pratiche di alcuni in alcuni uffici. Vantiamo circa 8 milioni di crediti da parte della pubblica amministrazione, che per una piccola struttura come è la nostra, che ha un budget annuo di circa 10 milioni, e si badi bene, di questo budget 3 milioni e mezzo sostanzialmente vengono da contribuzioni pubbliche, il resto ce lo guadagniamo noi con le nostre attività. Quindi noi siamo in una situazione, peraltro abbiamo chiuso proprio l'altro giorno il bilancio del 2012, ed è un bilancio addirittura inutile, in un momento in cui appunto il mondo intero va in crisi. Ciò nonostante, noi vantiamo crediti dalla pubblica amministrazione per una cifra che chiaramente metterebbe in ginocchio chiunque. Non casualmente, a far capire che tipo di struttura è Città della Scienza, i lavoratori dal sottoscritto lavorano senza stipendio, ormai siamo arrivati a 11 mensilità, ma fino al giorno prima, anzi fino al giorno stesso dell'incendio, il Science Center era aperto. Quindi anche il direttore era senza stipendio. Certo, il direttore qui a essere senza stipendio. Questa è una notizia che finora non avevo visto. Sentiamo qualche ascoltatore, direttore, poi andiamo avanti e cercheremo anche di capire in realtà quale può essere il contributo che si può dare a una veloce ricostruzione, perlomeno del concetto, anche se poi per le mura materiali forse ci vorrà un pochino più di tempo. Rosalba, buongiorno. Buongiorno, io sono la preside di una scuola di Scampia e volevo parlare da donna di scuola addolorata per questa situazione, e comunque già io sto in contatto con dei colleghi per mobilitarci affinché quanto prima questo polo di forte attrattiva, non solo per i ragazzi, perché i ragazzi potevano fare esperienza di didattica laboratoriale. Mi sono venute le lacrime quando ho pensato al planetario, che era meraviglioso e affascinava questi ragazzi che veramente si vivevano in un'altra dimensione. Ma è stato un polo di... Mi scusi, sì. Presidente, i ragazzi la sentivano come un loro patrimonio anche territoriale, qualcosa di cui erano fieri questo posto? Sì, fra le tante sì. cose di cui normalmente non si è molto fieri, ecco. Guardi, noi ce ne accorgiamo quando organizziamo le visite di istruzione, l'adesione era sempre forte per la Città della Scienza, proprio perché c'erano tanti percorsi e quindi che potevano un po' interessare anche a livello trasversale certi itinerari, anche gastronomici, di scienze, proprio di cultura, ma la cosa forte per noi, le ripeto, io parlo come donna di scuola, educatrice, dirigente, è stato anche un centro di formazione per noi, molto forte, ma proprio anche d'estate, noi abbiamo portato i ragazzi a Città della Scienza anche d'estate, quindi io mi auguro e metto a disposizione la mia scuola, io quest'anno dirigo due scuole, sono anche la preside del carcere Secondigliano, metto a disposizione le strutture per creare tanti piccoli poli alternativi fin quando non si creerà di nuovo la maestosa Città della Scienza. La considera un'offerta che può essere in qualche maniera utile, Luigi Amodio, ricordo direttore di Città della Scienza? Ma sicuramente, noi stiamo raccogliendo in questi giorni offerte da tutti, tra l'altro appunto adesso ci stiamo anche organizzando per gestire questa grande offerta che stiamo ricevendo, e la telefonata della dirigente è proprio paradigmatica anche dell'errore che è stato fatto, se qualcuno sembra appunto ormai abbastanza acclarato che ha deciso di distruggere questo luogo, perché vede, il Science Center era un luogo dove la cultura alta e la cultura, tra virgolette, bassa si incontravano tutti i giorni e convivevano allegramente. E questo è anche una delle ragioni per cui oggi a Napoli ci si stupisce del clamore, no, generato a livello mondiale. Ma lei se l'è fatta un'idea, direttore, a parte non vogliamo assolutamente sostituirci a chi su questo sta indagando, quale simbolo è stato voluto colpire? Perché sarà un aspetto probabilmente meramente speculativo, ma anche un aspetto di colpire simbolicamente una sorta di valore. Io lo ribadisco, simbolicamente, quello che stavo dicendo prima, era un luogo amato dai cittadini, meno amato da alcune élite culturali, che chiaramente ora non possono non rendersi conto del vulnus che appunto è stato. Chi è che non lo amava? Stato. Chi è che non lo amava? No, più che non amato, diciamo, per molto tempo è stato guardato con sufficienza, ma non per cattiveria, ma credo proprio per un limite culturale tutto italiano, no? Molte volte ci magari appunto un certo mondo accademico, forse troppo vecchio per capire, soprattutto. Beh, diciamoci ancora passati. Chi prende l'acqua santa quando sente la parola scienza e butta l'acqua santa. Non solo, ma quando appunto dice vabbè, è una cosa per bambini. E io qui lo voglio dire. È questo il tema, l'ho detto. Pensavano che fosse un parco a tema, questa è la cosa che sbagliano. Allora, Città della Scienza non solo non era un parco a tema, ma appunto, ripeto, c'è difficoltà in alcuni pezzi anche dell'intellettualità italiana a categorizzare, diciamo, correttamente poi le cose. Ma io dico di più, il Pacific Science Center di Seattle, che è vero un parco a tema della scienza, è però considerato normalmente dai cittadini di Seattle e anche dai professori universitari di Seattle il modo corretto per avvicinare i ragazzi. Per avvicinare i ragazzi alla scienza, per avvicinare i ragazzi alla cultura. O vogliamo pensare, diciamo, di educare i nostri ragazzi ad amare la scienza? Beh, con i manuali. Detto, non vorrei essere crudele, ci sentiamo poi fra un istante dopo l'informazione del traffico. In un paese in cui il servizio pubblico spaccia per scienza programmi come quelli di Giacobbo, sulla fantasy, sulla superstizione delle grandi piramidi e il sigillo di Re Salomone, è un po' difficile, mi rendo conto, far passare questo concetto. È ancora più duro che poi dover affrontare le fiamme della camorra. Melog, la realtà condivisa. 800240024, vedo che il pubblico di Radio 24 comunque è molto interessato, è attento, è competente, sa esattamente di cosa stiamo parlando, sa esattamente qual è il problema e sa esattamente qual è la gravità dell'atto che è accaduto, quindi questo mi conforta molto. Claudio, buongiorno. Claudio? Chiamo da Genova. Sì, mi sente? L'ascolto, certo. Ah, innanzitutto volevo complimentarmi con Radio 24, che non conoscevo, e da dopo le elezioni ho cominciato a sentire tutti i giorni e ho scoperto una radio con delle persone che fanno un servizio pubblico molto valido, e quindi vi dico grazie. Poi volevo esprimere la mia solidarietà al direttore, e ho la fortuna di parlare proprio col direttore, perché ritengo che tra l'ipotesi della speculazione edilizia o quella dell'attacco alla cultura, la seconda sia quella più plausibile. La cultura è quello che spaventa i potenti, che spaventa quelli che hanno il potere in mano, perché ovviamente quando una persona sa di che cosa sta parlando e non è un ignorante, riesce anche a fare valere le proprie ragioni. Io ritengo che questo sia stato solamente un attacco alla cultura più che una speculazione edilizia. Volevo fare complimenti al direttore e dirgli che stanno facendo un ottimo lavoro e di continuare così. Per quello che potrò, della trasmissione di cui rispondo, non rispondo alla radio, ma rispondo di questo spazio, e ne ho gli strumenti per poterci lavorare, mi metto a disposizione per tornare poi su questo argomento, visto che lo reputo importante. Ci saranno occasioni concrete e reali per dare un contributo alla rinascita della Città della Scienza. Noi siamo qua. Armando da Napoli. Salve, buongiorno. Io volevo solo intervenire e dire che è un attacco alla cultura. Io sono di Bagnoli, precisamente, e lo può confermare il direttore, la zona dove esiste, perché esisterà sempre Città della Scienza, è Coroglio, quindi una zona bellissima. prima panoramica sviluppata dopo la chiusura dello stabilimento dell'Ital Sider, quindi cercavamo di dare occupazione, datosi che il turismo a Napoli, per quanto se ne è sempre parlato, di fare il lungomare di Coroglio fino ad arrivare a Mondragone, ecco, un grosso litorale di turismo, ecco, poi non se ne è fatto niente, si è costruito Città della Scienza. Città della Scienza si sta ingolpando la Camorra. La Camorra, il direttore lo può confermare, non hanno mai avuto nessun intimidazione riguardo alla Camorra. Io penso che soltanto un qualche cosa alla cultura. Napoli come Città della Scienza è stata colpita anche con Pompei. Sono andati molti ministri come a fare dei sopralluoghi, a voler stanziare dei soldi, se ne è parlato e come al solito non se ne è fatto niente. Io spero che Città della Scienza, a differenza di altri posti, i politici italiani, le persone in Italia non la conoscono, la conosce l'estero. È quello che è stato detto, Armando. Abbiamo detto che diciamo c'era una grande visibilità in quella che era la comunità scientifica. Stefano Morigi, filosofo della scienza, che ci ha dato l'idea e ci ha aiutato a costruire questa trasmissione, questa nostra attenzione sulla città della scienza. Vediamo di cominciare a fare delle sintesi, poi sentiremo il direttore se ha qualcosa da dire su quello che possiamo fare per loro. Stefano. Guarda, io credo che questa tragica occasione debba essere lo spunto, l'inizio per cominciare a parlare della scienza, come si diceva prima, come bene pubblico, come un sapere che è strutturalmente ma deve essere condiviso. Cioè la rinascita della città della scienza dovrebbe essere, proprio anche simbolicamente partendo da Napoli, il punto per ricominciare a parlare di educazione scientifica in Italia, che come diceva prima Amodio è una lacuna sostanziale del nostro paese. Ti dico solo che mi informano ora su internet che su un fogliaccio italiano, purtroppo di divulgazione nazionale, si dice che la città della scienza, tutto sommato, anche se bruciata, non è grave, perché si invitavano i giovani a credere nell'evoluzionismo, che è una forma di nichilismo parascientifico. Capisci? Quando su un foglio, che è poi il foglio nazionale, se è stato scritto è una realtà, se l'hanno scritto, citiamo la fonte. Escono notizie, è il foglio. Escono, quindi è stato un rogo purificatore, come per Giordano Bruno. Purificatore, ecco. Di un posto dove si insegna quella brutta cosa che è l'evoluzionismo. Ma vergogna, è vergogna che ci sia in un paese civile come l'Italia questa considerazione della scienza, delle più accreditate teorie scientifiche. Proprio per questo è importante che la rinascita di Città della Scienza sia simbolicamente chi scrive questo si fa idealmente diciamo complice di chi l'ha bruciata alla fine, perché certo. È esattamente così. Se abbiamo voluto distruggere un simbolo di apertura mentale, di leggerezza mentale, di uscita dai confini angusti delle nostre gabbie mentali, ideologiche, pregiudiziali, dire è stato giusto, è stata bruciata, molto grave. Andiamo al direttore. Direttore Luigi Amodio, abbiamo diciamo 3 minuti per concludere. Li lascio interamente a lei per dire, in realtà, al di là di questa trasmissione che abbiamo costruito questa mattina con Fabrizio Intonti e Stefano Morigi, cosa secondo lei è possibile fare per divulgare e evitare che si dica che il fulmine divino si è abbattuto sul luogo degli anticristi e rientra tutto un disegno generale, è giusto, è stata bruciata? Invece no, la città della scienza deve risorgere, e cosa possiamo fare per aiutarvi? Allora, intanto saluto Stefano Morigi con affetto e ringrazio anche i due ascoltatori, e vorrei partire proprio da Genova. Genova è un modello, a mio avviso, di come si lavora. Genova è la sede del Festival della Scienza. Noi tra l'altro ci siamo stati tante volte con delle mostre, una proprio di queste è andata bruciata l'altra sera, dedicata alla genetica e anche all'evoluzionismo. E Genova è un esempio di come si lavora in questo campo: la città dei bambini, l'acquario, il museo del mare, il festival della scienza e così via discorrendo. Noi qui a Napoli abbiamo fatto un po' da tripista di questa storia e continuiamo a lavorare. Questo io e la è il messaggio veramente che do in maniera spasmodica. Ieri il direttore del Corriere del Mezzogiorno la sigla ci porta via, direttore, lei ci dia un giorno un appuntamento in cui possiamo risentirci quando vuole, e comunque il nostro sito internet vi dà tutte le notizie su quello che stiamo facendo e come fare per sostenerci. Grazie al direttore della Città della Scienza, grazie a Stefano Morigi, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, torneremo su questo argomento.